Dialog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Nelle vicende di cui ultimamente tutti parlano e anche noi abbiamo ampiamente discusso riguardo ai conti in casa leghista, c'è un episodio che mi ha particolarmente colpito. L'antefatto, anche se non indispensabile, che oggi non mi interessa parlare né di Lega né di politica, però mi ha colpito la notte dell'orgoglio leghista a Bergamo, la famosa notte delle scope in cui si ridisegnava la successione. Il vecchio patriarca Umberto Bossi, a un certo punto, con le lacrime agli occhi, ha chiesto a tutti scusa per il proprio figlio, perché per quelli che portano il suo cognome, che è qualcosa di molto arcaico, di molto antico, di molto lontano dagli usi contemporanei. Tiriamolo fuori dal suo contesto, dalla situazione in cui si è svolto, dal perché, per come, per quando, da tutta la trotologia che oggi sta appassionando chi è pro e contro, chi sta osservando il fenomeno Lega in questa sua fase di eclissi e probabilmente anche di rinascita. Oggi un padre non si prende le responsabilità dei figli, assolutamente, anzi, siamo stati cresciuti, educati su un principio che sembrava un principio di grande modernità, di grande leggerezza, che le colpe dei padri non debbano ricadere sui figli. È valso per la generazione dell'immediato dopoguerra, in cui molti figli dovevano fare i conti con l'imbarazzante eredità di padri che nel corso di un conflitto bellico particolarmente cruento e particolarmente estremo si erano macchiati di grandi colpe. I figli dei gerarchi nazisti, i figli dei gerarchi fascisti, i figli di chiunque abbia comunque in guerra compiuto dei crimini di guerra, rivendicavano il fatto che le colpe dei padri non dovevano ricadere sui loro figli. Trovo molto singolare che oggi un padre dice esattamente il contrario, si prende carico delle colpe dei figli, come se lui avesse sbagliato qualcosa, con questo antico, lontano, desueto richiamo al portare il cognome. Portare il cognome non è altro che la versione edulcorata dell'appartenere a una stirpe, appartenere a una sorta di clan. Qualcuno ha sbagliato della mia gente, della mia stirpe, del mio clan, me ne faccio io carico e chiedo scusa. Questo, secondo me, è un buon punto di inizio per riflettere sul senso oggi della paternità. Essere padri oggi è un divertente, tranquillo passatempo, è un trovarsi accanto delle persone che ci somigliano molto, anche perché portano gli stessi nostri vestiti. Quando mai chi oggi ha più di 40 anni indossava gli stessi vestiti di suo padre? Oggi padri e figli mettono le stesse cose, normalmente non esiste uno status, una differenza di atteggiamento esteriore tra padre e figlio. Accadeva esattamente il contrario: i ragazzi di brava famiglia, se guardate le foto anche semplicemente degli anni 50 e 60, quando andavano alla scuola media, dovevano vestire come i loro padri, si mettevano con le giacchettine ridicole, che poi mettevano con i pantaloni corti a livello inguine, mettevano i calzettoni e le scarpe con i lacci, ma mettevano la giacca e la cravatta, perché la loro entrata nel mondo del rigore e delle responsabilità equivaleva a mettere le divise ai loro padri. Oggi c'è una grande, fantastica e meravigliosa confusione in cui i padri e i figli, a colpo d'occhio, vorrebbero o tenterebbero o ambirebbero a frequentare le stesse persone, ascoltano la stessa musica. Il fenomeno della passione per il vintage, del revival, porta a questo. Oltre a mettere gli stessi abiti, vanno in giro con le stesse motociclette. Una volta il figlio aveva la motocicletta, il padre aveva l'automobile, no, oggi il padre va con lo scooter come ci va il figlio, hanno lo stesso scooter, lo stesso modello, anzi molte volte il padre è molto più sportivo del figlio, fanno le stesse attività, frequentano più o meno la stessa classe di persone, perché non si invecchia mai o si invecchia molto difficilmente. E in questo cosa significa ancora essere padre? Essere padre significava mantenere un profondo discrimine generazionale. il padre era il padre, il figlio era il figlio. Ma ci si è perso a un certo punto questo passaggio. È venuta la confusione dei ruoli, è venuta la rivolta dei figli contro i padri, è venuta la sana reazione politica del figlio che aveva l'idea di cambiare il mondo nei confronti del padre che era legato al vecchio mondo. Oggi non esiste un mondo antico impugnato dai padri, non esiste un mondo futuro impugnato dai figli. Padri e figli, mano nella mano, anzi, seduti sullo stesso divanetto, esattamente come la famiglia Simpson, che è la rappresentazione, secondo me, più concreta e reale della famiglia media dell'umanità occidentale mediamente avanzata, guardano verso un futuro riflesso che è quello della televisione. 800 24 0024, e cosa significa per voi essere padri? La camera tua non te fa un po' d'effetto da rivederla? Io sta stanza ho sempre odiato, papà. Cioè, perché veramente, cioè, mi riporta veramente a un periodo, a un passato che me... Cioè, talmente lontano, talmente distante, cioè che mi riconduce veramente a una dimensione proprio che non mi appartiene più, capito? Ma è tutto tuo qui, Ruggero, è tutta roba tua! A proposito, Ruggero, sembra che il commendatore sopra si venne appartamento. So tre camere, una cucina grande e un bel bagno. È un affare, Ruggero, se potrebbe fare un pensiero sopra. Io invece dico, papà, che è proprio il caso, ma di non pensarci proprio, capito? Cioè, a parte il fatto che il discorso sulla proprietà mi sta bene fino a un certo punto, ma proprio il concetto di casa che l'ho superato da un sacco di tempo, capito in che senso? Ammazzate, Ruggero Marifico, tutto acquisto. Hai visto, eh? Ah, Ruggero, come facevi con sta batteria? Fermo. Sempre con sta questa violenza in tutto, madonna! Ma che violenza questa? E questa ammazzare qualcuno? E quando che sto la invece magari due coglioni così! Scusa, Ruggero. Scusa. Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno. Giuseppe Sansonna, neopadre, non è mica tanto, quanto c'è un anno. Un anno e mezzo ormai. Cioè, ho visto praticamente concepire il desiderio, concepire il figlio, partorire e nascere tuo figlio davanti a questi microfoni. Quindi vediamo se riusciamo, confrontando le nostre esperienze, a scavalcare qualche luogo comune con l'aiuto degli ascoltatori. Premetto, troverete lesionata e forse fratturata la mia voce, ma l'anatema della seccatrice di prostate coniugali mi ha colpito. Ho avuto una notte terribile, ho un mal di gola bestiale, quindi anche a me probabilmente pagherò il fio di avere sfidato l'ira della grande castità di questa signora. E stavo parlando, abbiamo preso un film di Verdone, Un sacco bello, in cui è rappresentato in maniera grottesca ma coerente al tempo in cui è stato prodotto il tipico conflitto generazionale. Il padre di Verdone, antico, vecchio, macellaio, mi pare, se non sbaglio, poi tu entrerai nella spiegazione, a un certo punto si sente dire sta zitto tu fascio dalla giovane compagna politicamente progredita di Verdone, dice fascio io, e io suo compagno con tutte e due le mani, qualcosa del genere. Beh, sembra che appartenga a una sorta di archeologia antropologica questa scena. È difficile risolvere il conflitto edipico se Laio assomiglia a Mario Brega, che tra l'altro rispetto a quello che citavi tu, Mario Brega qui fa la parte appunto del vecchio comunista, delle tue immagini, era questo fisico con questo ventre dilatato a gran cassa dalle code della vaccinara, dal vino dei castelli, no? In realtà nella vita era un nostalgico del fascio, aveva un busto mussoliniano in casa, quindi è una sorta di paradosso che sia questo padre. Comunque in ogni caso vive un conflitto irrisolvibile col figlio dei fiori, Verdone, con questa lunga chioma bionda alla Jesus Christ Superstar e questa parlata languida, intorbidita, insomma da questi immersioni in queste piscine inammucchiate varie con esibizioni di spade di fuoco da parte del loro guru. Si prova, diciamo, una dialettica, c'è una diversità, c'era un passo di differenza fra il figlio dei fiori alla vaccinara, naturalmente il padre che era alla vaccinara nel senso facesse il macellaio, la compagna del figlio, diciamo il passaggio di una generazione, il passaggio di un'epoca, lo scatto reale che ha avuto questo paese faccia sì che fra padri e figli comunque ci fosse, anche se conflittuale, una dialettica. Io trovo che oggi la dialettica sia molto limitata. Sentiamo Stefano. Stefano, buongiorno, primo ascoltatore. Sì, dottor Nicoletti, buongiorno. Io sono parzialmente d'accordo con quello che sta dicendo, nel senso che lei dice c'era meno, oggi c'è meno comunicazione tra padre e figlio rispetto a ieri. Non ho detto non c'è meno, mi corregga, scuse, non ho detto c'è meno concreto. Dico oggi c'è una sorta di omologazione, un padre e un figlio messi accanto, è difficile capire, ma come grazie a Dio è difficile capirlo per l'antica e sana legge della maniglia, anche tra una madre e una figlia, è difficile capire chi sia il genitore e chi sia appunto il frutto della generazione di quell'uomo. Probabilmente sì, però io lo trovo positivo, nel senso che se noi pensiamo al figlio che, allora, secondo me il ragazzo di 18 anni che si approcciava al mondo 40 anni fa forse era veramente un bambino, adesso soprattutto se andiamo nei paesi anglosassoni o da altre parti, il 18enne, il 17enne, accidenti, a volte parli con dei personaggi giovani che dici, cavolo, che esperienza che hanno almeno nell'ambito lavorativo, nel loro... Sì, però è l'altra faccia della luna rispetto al nostro paese, io mi fermavo un po' alla nostra esperienza, volevo chiamare gli ascoltatori a parlare della loro esperienza. No, allora la mia esperienza gliela dico molto, molto velocemente, nel senso, mio figlio, perché io sono padre, ho un figlio di 23 anni, che è vero, assolutamente è vero, il fatto che ogni tanto mi sento come quel figlio di amici miei, non mi ricordo chi fosse l'attore, che diceva, ma babbo, che cosa stai facendo? Perché stai facendo qualche stupidata. Ogni tanto mi sento così perché magari... Però vedi, conferma quello che dico io. Oggi non entriamo mai in quella dimensione austera in cui ci buttiamo dietro alle spalle una nostra fanciullezza, la nostra ansia di vita, di piacere, di rapace e quotidiana curiosità del mondo, perché diventiamo padri. E il padre butta tutto dietro le spalle e aspetta che gli venga il tumore alla prostata, come diceva la signora di ieri. Ma non vorrei mai che fosse così. Vero, però bisogna anche dire che, se onestamente, da un punto di vista poi di crescita anche professionale, mio figlio, che non incitato ma prendendo come modello la famiglia, le dico, mio figlio ha fatto l'informatico su un altro settore come lo è il padre. E per avere 23 anni è un informatico, come si dice, esperto, cioè è una persona che ha 23 anni. Ma lei non si sente, però, scusi, ma vede, lei mi sta quasi sempre confermando quello che ho detto. Lei non è che si sente ormai di aver dato il testimone, fate lo stesso lavoro, suo figlio magari sarà più avanzato nei linguaggi di programmazione, le dirà, papà, guarda, oggi hanno scoperto questa cosa, ma più o meno messi fianco a fianco, la differenza, si noterà una lieve stempiatura da parte sua, ma siete più o meno appartenenti a una stessa generazione allargata. Sentiamo Luigia, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, io volevo portare la mia testimonianza come neo mamma di un bimbo maschio di 5 mesi. E il padre dove sta? E il padre adesso è al lavoro. Però oggi parliamo dei padri, delle mamme non ce ne importava nulla, veramente. Di mio marito voglio parlare, e ho anche una figlia di 8 anni. La cosa che mi ha stupito di mio marito come padre è mio marito, che lavora con le donne, è sempre in giro. Cioè, lavora con le donne è ambiguo, buon per lui. Nel senso che conosce il mondo femminile, in questo senso qui, quindi non è maschilista, mai stato maschilista. Ma nessuno di noi lo è, guardi. E invece no, adesso che è nato il figlio maschio, stanno venendo fuori degli aspetti del suo carattere e proprio confermano tutti i luoghi comuni, cioè che il figlio maschio è diverso agli occhi del padre e della figlia femmina. Ma questo è giusto che sia così. Guai se lo allevasse come il pelì di Achille, vestendolo la donna e stando fra le fanciulle. Però i figli poi alla fine, sotto certi punti di vista, dovrebbero essere tutti uguali. No, il maschio è maschio e femmina è femmina. Mi scusi su questo. È giusto, secondo lei? Sì, giusto. Ringrazi che suo marito ha un occhio differente nel percorso formativo del maschio e della femmina. È giusto che ognuno sia addestrato a prendersi responsabilità diverse, muoversi in ambiti diversi. Questo non significa che la femmina dovrà essere addestrata a fare le formine con i dolcetti, a vestire la Barbie, assolutamente, ma è logico che il padre ha il compito e il ruolo di addestrare il maschio ad essere tale. Questo non vuole assolutamente poi discriminare le eventuali scelte affettive, amorose. Maschio significa una persona che si prende le responsabilità da maschio, può avere anche una vita affettiva, coniugale, sessuale, come piffero gli pare, ma rimane la differenza di polarità fondamentale. Io la vedo così, almeno. Anna Maria. Ah, buongiorno, sì, io sono, ho ascoltato l'inizio della trasmissione, sono pienamente d'accordo con lei. Questi giovani, diciamo, non hanno preso le distanze dalla nostra generazione, sono troppo simili a noi. Ma non è che siamo noi che in realtà non vogliamo mollare il fatto di mantenerci in un eterno stato di adolescenza, giovinezza, frivola felicità? Anche. E io sono contento che sia così, io non vorrei mai essere diverso. No, però io ho vissuto una generazione, diciamo, siamo forse un po' coetanei, e i nostri padri erano completamente diversi. Noi ci sentivamo veramente completamente diversi dai nostri genitori. La realtà è oggi, come scrive il professor Intonti, è che i figli non è ben chiaro se confermino o smentiscano i padri. Secondo me li confermano. Il figlio vede il padre e si identifica con il padre. Tutto sommato non credo sia un conflitto così acceso tra padre e figli. Padre e figli, nella migliore delle ipotesi, sono buoni amici. Nella peggiore delle ipotesi non si calcolano per niente, ma non esiste quel conflitto rude fra padre e figlio che mette le generazioni a confronto. Non ho psicologi sotto mano, non ho persone che possono darmi letture di tipo profondo. Parliamo ognuno per la propria esperienza. Sali in macchina, forza. Lasciami in pace, non ricominciamo. Questo lo decido io, andiamo. Lasciami in pace. Sali in macchina o ti ci spingo dentro a calci. Basta, vattene, vaffanculo. Non ti permetto di trattarmi così. Se fino adesso del tuo rispetto me ne strafottevo, da ora in poi lo pretendo, lo esigo. Non ho mai voluto fare il padre, ma a partire da adesso voglio farlo. Farlo sul serio, proprio come vuoi tu. Io ti starò addosso, non ti lascerò più respirare. Voglio sapere tutto di te, tutto quello che fai, che genere di persone frequenti, voglio sapere come ti comporti con i tuoi amici. Questo voglio è un padre in caduta libera che chiede il rispetto. Il rispetto è una qualcosa che deve venire spontaneo. Il figlio ti rispetta perché ti vuol bene, perché si fida, perché sa che quello che dici per lui è per il suo bene. Se tu imponi il rispetto come se fosse una regola, il figlio giustamente ti disprezza. Questo è Colpire al cuore di Gianni Amedio dell'83. In pieni anni di piombo, Amedio cerca di tratteggiare un rapporto padre-figlio in cui il padre è questo ambiguo e affascinante professore di sinistra e universitario trentignano che fiancheggia i terroristi, e il terrorismo diventa un po' una cartina al tornasole per analizzare i suoi rapporti col figlio. Il figlio è escluso dal suo rapporto con gli studenti, lui è molto affascinante, una sorta di cattivo maestro che ha grande impronta sui suoi studenti. Uno di questi verrà ucciso in un conflitto a fuoco, e quindi il figlio comincia a una distanza affettiva totale dal padre, e quindi cerca di affidarsi alla giustizia e finirà col fare il delatore, un po' per farsi anche notare per entrare in conflitto però col padre. Però è molto importante questo richiamo, perché forse avevo omesso di dirlo prima. Non dimentichiamo che la generazione non tanto dei padri di cui stiamo parlando oggi, che sono i padri che mediamente hanno dei figli in età adolescenziale, padri dai 45 ai 55 anni più o meno, ma forse la generazione mediamente precedente o l'ambita soltanto di striscio anche questa generazione, aveva un problema grossino. C'erano figli di ottima famiglia che andavano a casa e nascondevano la pistola sotto il cuscino. Molte volte i padri soltanto lontanamente se ne potevano sentire responsabili, perché e quello derivava o dall'aria che avevano respirato in famiglia o da un contrasto aperto rispetto all'aria che avevano respirato in famiglia. I padri cadevano dalle nuvole, sembrava impossibile. Quanti figli di ottima famiglia andavano per strada e assassinavano e sparavano, e quanti compagni di scuola siamo visti mandare all'ospedale o uccidere o sprangare o finire in clandestinità. Era qualcosa che rendeva drammatico e periglioso rapporto padre-figlio. Oggi qual è il dramma nel rapporto tra padre e figlio? Melog. La realtà condivisa. Allora io ho conosciuto i tuoi amici. E se vuoi saperlo, non mi piacciono affatto. I cattivi compagni. Lo so, questi cattivi compagni amano scherzare. Ma gli scherzi a volte diventano pericolosi, sai. Specialmente quando chi li fa è gente che non sta a posto col cervello. Non so di che parli. Quali scherzi? Chi è che scherza? E se non sono scherzi è ancora più grave. Insomma, Marco, te lo dico chiaro. Io da adesso in poi intendo controllare la tua vita molto più da vicino. Io non ti permetto di lasciarti travolgere da questa pazzia che ci circonda. Sono sano di corpo e di mente. Sì, lo so, questo lo so, almeno spero. Allora posso andare? No, non ho ancora finito. Te ne andrai quando avrò finito. Non sopporto più che mi tratti in questo modo! Festo quando mi pare e se voglio non torno più! Capito? Questa casa è odiosa! Non l'ho fatto apposta. Non l'ho fatto apposta. Non so quanto ancora sia possibile udire tragedie del genere nelle famiglie italiane, quanto i figli debbano strillare, esco, non esco, ma poi escano i figli, ma chi se ne importa, l'importante è che tornino. 800240024, oggi stiamo parlando della mutazione, della deriva del rapporto padre-figlio, deriva secondo me nemmeno negativa, alla fine è giusto, non abbiamo queste figure che ci schiacciano, che viviamo con angoscia per tutta la vita, e viviamo sempre in conflitto, di cui vediamo i limiti, ma non osiamo nemmeno ammetterlo a noi stessi, perché il padre è intoccabile, è incriticabile. Oggi il padre molte volte diventa il figlio di suo figlio. Io spesso sono figlio dei miei figli, mi sento riprendere dal mio figlio maggiore, dice, ma papà dai, non fare il coglione. Quindi sono contento che, essendo visceralmente, radicalmente un inguaribile coglione, sono riuscito a dare a mio figlio perlomeno degli strumenti di rigore. Giuseppe Sanzon. Questo che invece abbiamo ascoltato è Caro papà di Dino Risi del 79. Siamo sempre liminari agli anni di piombo, quindi Risi e Gassman stavano invecchiando e stavano cercando di afferrare una realtà che gli sfuggiva, di descriverla in qualche modo. Qui Gassman rappresenta un industriale che ha fatto la resistenza, ha condiviso certi ideali e si è però arricchito poi diventando appunto un rampante uomo d'affari. Si trova davanti questo figlio di cui intuisce l'adesione a gruppi di terroristi, che, e poi a un certo punto coglie in un diario segreto la possibilità di essere ucciso, di essere vittima lui stesso di un attentato organizzato dagli amici di suo figlio. Quindi siamo esattamente all'opposto di Colpire al cuore, siamo in maniera, il film è un po' più didascalico, meno sfumato di Colpire al cuore, più stentoreo, come era stentoreo Gassman, insomma, nei suoi personaggi in questo periodo soprattutto. Però coglie appunto questo aspetto, questa sorta di mette il dito sulla piaga dell'incomprensione. Appunto c'era una vecchia generazione che cercava di trasmettere comunque dei valori nel bene e nel male, che si trova di fronte a una realtà che sta sfuggendo, che comincia ad assumere dei connotati anche sinistri. Sentiamo qualche ascoltatore. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno. Io vorrei provare a rispondere alla sua domanda: qual è il dramma del rapporto, della paternità, quale può essere il dramma della paternità? Il dramma legato alla contemporaneità. Sì, guardi, io credo che il dramma, ma non voglio generalizzare, ma credo che il dramma possa essere legato al tema delle aspettative. Non solo quelle delle aspettative sui figli, ma quelle delle aspettative che un padre può avere di sé, su se stesso come padre. Io le porto la mia esperienza, sono padre da 10 anni, ho voluto essere padre nell'ambito di un matrimonio e come tale l'ho desiderato, credendo un po' anche per stereotipi che il mio ruolo sarebbe sviluppato in un certo modo. Poi invece si è sviluppato in modo completamente diverso, perché poi mi sono separato e quindi da 7 anni faccio il padre di un bimbo separato, e con ciò voglio dire che ho scoperto poi la capacità di essere padre in un modo completamente diverso rispetto a quello. Ecco, posso dire una cosa? Le sono molto grato, perché ci stavo riflettendo. Io la mattina, quando partiamo con un'idea di trasmissione, non ci penso mai prima, perché mi piace che le idee vengano in corso d'opera. Io stavo riflettendo che, se vogliamo dare dei segni palesi di quello che è stato il dramma diffuso, perlomeno il terreno di scontro, è stato la presa di coscienza politica dei figli, che era semplicemente un'adesione a un mondo di valori, non era quello dei genitori. Poi naturalmente la scelta politica diventava una scesa in campo in clandestinità e in terrorismo, quindi sono stati gli anni di piombo, padri facendo i conti con figli assassini o assassinati. Poi c'è stato il problema immediatamente conseguente, che è quello dell'eroina, della droga. Io faccio questo mestiere da parecchi anni, ma nei primi anni 80 la maggior parte delle trasmissioni che si facevano sul sociale parlavamo con comunità, con figli, con padri. C'era il problema della droga, soprattutto dell'eroina. Il vero problema delle famiglie era il figlio che si drogava. Oggi mi sembra anche abbastanza scemato questo problema, un po' perché magari pippano più i padri dei figli, non so bene quale sia. Lei ha colto però qual è veramente il terreno oggi di differenza, che non c'è più la famiglia. perlomeno tutte queste famiglie gestivano il problema, ma da famiglie. Oggi la famiglia sta mostrando, è una cosa di cui abbiamo parlato spesso, alcuni suoi punti di non adeguatezza ai tempi, quindi persone come lei oggi gestiscono il figlio, sono padri, ma magari con un piede qua, un piede là, con un'altra famiglia, con una gestione nel migliore dei casi di amichevole collaborazione con l'ex moglie. Se posso aggiungere solo un aspetto, perché questo aspetto naturalmente ci fa essere padri in un contesto diverso da quello nel quale pensavamo di stare, però ci fa scoprire anche, voglio dire, essere padri anche pur in un contesto diverso, ci fa scoprire capaci di esserlo in un modo inaspettato. Quindi voglio dire, per questo, perché io ritengo che purtroppo oggi molti diventano padri, perché diventare padri è un fattore innanzitutto biologico, ma non necessariamente quando lo si diventa lo si è capaci, lo si diventa dopo, lo si diventa scoprendosi anche diversi da quello che si pensava, e però in questa diversità scoprendo anche la capacità di esserlo. Ma se ne accorge di solito un po' avanti nel tempo, la madre se ne accorge subito di essere madre, al primo momento che si accorge di essere incinta. Posso chiudere solamente dicendo che l'unica cosa che posso consigliare, io il padre sicuramente non modello, però, o meglio, che ora sto scoprendo di poterlo essere anche in una situazione diversa, è quella che posso consigliare, è quella ad un padre, in qualunque situazione appartenga, è quello che ho ricevuto io dai miei genitori, che risulta essere molto difficile praticare, che è quello di lasciare che i figli vadano, non comprendano i padri, che i padri non comprendano pure i figli, ma fondamentalmente capaci poi di aprire le braccia nel momento in cui i figli, fatto il loro percorso, a volte incomprensibile, come ho fatto io per i miei genitori, poi possano ritrovare... Lei d'altronde, lei è fra gli apripista di un nuovo modello che diventerà quanto mai comune fra un paio di generazioni, quindi lei sta sperimentando una nuova forma di conformazione sociale, che non so quanto possiamo ancora chiamare famiglia, un termine un po' desueto e antico. Senti professore, facciamo una cosa. I due ragazzi cosa vogliono? Vogliono vedersi, fidanzarsi, sì, ufficialmente, altre balle del genere? Sì, e allora? Benissimo. Ma in questo caso, badi bene, in questo caso devono studiare. Mi sembra una soluzione. È una soluzione tutto sommato. Ma studiare sul serio? Peggio per loro. Vogliono vedersi e si vedono, ma devono studiare come matti, come forsennati. Loro ricattano noi e noi ricattiamo. Magari diranno che siamo duri e lasciamoglielo. Vai, professore. Ecco Giuseppe, questa è l'antitesi rispetto alla telefonata del padre apripista di un nuovo modello di famiglia. La famiglia in cui il padre in coscienza vuole modificare la tradizionale figura del padre, tradizionale anche rispetto alla generazione immediatamente a lui precedente, e l'articola in questo modello di famiglia aperta, separata, diffusa, raddoppiata e via dicendo. Dice: io cerco di essere un buon padre comunque, anche se sono separato, anche se è diverso da quello che mi aspettavo. Qua ritorniamo invece nella tradizione. Innanzi i padri che si mettono d'accordo sulla coppia di giovani figli che probabilmente hanno fatto il fattaccio, non lo so, vado a intuito, e la prima cosa che fanno, devono studiare, grazie alla posizione. Si sono fidanzati, in realtà il film è Padri e figli, siamo in pieni anni 50, nel 57, diretto da Monicelli, e qui c'è Vittorio De Sica che mostra tutta la sua inadeguatezza meravigliosa. Ma ti rendi conto quanto è importante il lavoro che facciamo di osservare attraverso la commedia italiana? Pensa che noi abbiamo detto arcaico il modello di Bossi che dice mi scuso per il mio cognome, ma pensa negli anni 50 ancora Vittorio De Sica e l'altro consuocero parlavano come parlano due guerrieri di una tribù Masai che devono decidere per il futuro dei propri figli. Certo, ma la grandezza di De Sica è anche di ridere internamente questo modello, perché si sente in qualche modo che nella sua voce flautata lui è lui stesso a non credere a questo superio che si cala addosso, a questa armatura paterna, che lui ha un amore verso la figlia e in fondo ne capisce la poca volontà di studiare e comunque l'innamoramento che ha verso questo ragazzo, questo compagno di scuola, però deve fare i conti col consuocero che invece è molto più tradizionale. Allora crea una complicità e cerca di ammorbidire anche il consuocero calandosi. Siamo negli anni del boom, nasceva già un qualcosa di diverso, era il grande contrasto, si usciva entrambi sono usciti dalla guerra, ma uno esce con un'idea conservativa e l'altro un'idea di innovazione totale. Melog, la realtà condivisa. Cristiano, tu non devi fare niente, fa solo quello che fa papà, non ti puoi sbagliare. Oh! È cambiata la direzione del vento, mo soffia da est. Sì, Cristiano Bella, papà non gliene frega niente del vento. Guarda qui che sventole che ci sono. Guarda, le vedi? Tutte disponibili, tutte belle. Guarda, guarda quelle due, Cristiano. Guarda quelle due. Quali? Quelle, accendi la sigaretta. Ma non fumo, quante volte lo devo dire? Cazzo, frilli. Hai un momento? Please, miss, excuse me. Oh. Dankeschön. Loro tedesche? Sono tedesche? Yeah, è tenero, ma è di un retro spaventoso questo Alberto Sordi che fa ancora il provolone con le straniere, cadente. È profetico, l'anticipazione della fulminea quanto veloce ad eclissarsi era Olgettina, di cui tutti ci siamo strappati le vesti, capito? Ma di questi signori che non rinunciano mai, sono fatti con le loro stesse mani, hanno l'agio, hanno il fascino dato dal potere d'acquisto, diciamo la verità, quello e basta, perché non c'è altro, e su questo si giocano e vorrebbero che i figli li seguissero un po' per sdoganarsi, un po' per sentirsi affrancati da questa loro rapacità senile che è molto patetica. Qui siamo nell'apoteosi del tardo sordismo moraleggiante e feroce allo stesso tempo degli anni Ottanta, ovvero qui vediamo musica da film porno, stiamo a bordo piscina, Sordi e Verdone vestiti come Tony Manero con i collettoni aperti e il padre che appunto fa questa sorta di educazione sentimentale del bamboccione Verdone, gli ha tolto la perenne salopette e il suo istinto a riprodurre continuamente i richiami degli uccelli, a vivere solo in questo mondo da boy scout, e cerca di iniziarlo la vita, è una sorta di metafora anche del rapporto reale. Proprio per sfregio, la giovane amante di Sordi si tromberà il figlio, sì. Idiota, ma lo sfregio massimo, dice guarda, vado con tuo figlio perché mi fai proprio schifo, perché lui non si prende la responsabilità di sposarsela. Cioè, una trovataccia da sotto Molière, quella finale appunto tipica del Sordi, che voleva cercare di dare dei messaggi in una realtà che non riusciva più a cogliere con la sua istintualità, invecchiando tutti questi eroi, i grandi colonnelli della commedia italiana non riescono, provano ad agire per proclami, per teoremi molto specifici. Ma vedi la differenza, quello che per il vecchio Sordi era un atto epico, capito? La giovane ragazza era talmente invaghita che voleva sposarlo, voleva scappare con lui, per il figlio diventa una stupidaggine come bersi un'aranciata in riva a spiaggia, sai, ho beccato una, c'era due bocce così, poi capito, e Sordi rimane impietrito, lo lascia in mezzo alla strada, vorrebbe quasi ucciderlo, ma capisci lì realmente il tempo che è passato e il testimone che deve lasciare comunque al figlio. Robertino, io oggi ti ho detto un sacco di bugie, ma proprio tante, tutte. La macchina americana non è mia, l'ho presa a Nolo. Non è vero che è un ufficio, non ho neanche un lavoro e non ho una lira. E di questo te ne sei accorto anche tu, vero? Sì. Oh, vuoi andare più alla svelta, sì? Ah, voi sì, ci avete presa, andate a piedi. Non vedete che è rosso? Papà, posso venire a stare con te? Con me? Sì. Certo che puoi. E come no? E già che puoi, devi venire a vivere con me. Adesso appena arriviamo dalla mamma gliene parliamo, eh? Perché io e te insieme stiamo bene, no? Sì. Prendiamo un bel appartamentino, anche piccolino. Tanto siamo due soli. Questo è il momento più tragico, quando il padre deve denudare la propria cialtronaggine al figlio da cui si sente giudicato e capisce che nonostante la tenera età l'ha perfettamente inquadrato per il cialtrone che è. È un big fish ante litteram, il giovedì del 63, forse il capolavoro di Risi, perché qui si avvale di un Walter Chiari meno, un cialtrone meno roboante del Gassman, del Sorpasso, più sfumato, si diceva che non avesse avuto successo al cinema perché, diceva Risi, aveva gli occhi troppo piccoli, non aveva occhi chiari, quindi non si imprimeva sulla pellicola. In realtà proprio questo suo essere sfumato conferisce alla sua cialtronaggine un'aria meno aggressiva, è come se lui cercasse di mostrare al piccolo figlio i benefici di un boom degli anni 60 da cui lui stesso era escluso, quindi lo va a trovare, gli mostra questa vita infantile e il figlio è molto più maturo. Tancredi, buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo raccontare un piccolo episodio che mi è successo l'altro giorno, rientrando a casa con mia figlia, che potrebbe essere uno spunto per alcuni pensieri simpatici. Allora, a me è sempre piaciuto un po' vestirmi in maniera originale. L'altro giorno sono tornato dal lavoro, c'avevo un cappellino modello Bronx, c'avevo la mia giacca di velluto, il pantalone un po' di una nota marca italiana di jeans. Lei fa il fighetto stampato. Quindi quando va a lavorare? Ma qualche volta, un po' sì. Insomma, dai. Il cappellino allora, Bronx. E sono rientrato e vedo mia figlia che ride. E dico, perché ridi? Perché ridi? Papà, ti sei vestito da fighetto. Allora mia figlia c'ha 5 anni e mezzo. Allora, ma io mi sono divertito, insomma, però allo stesso tempo poi ho pensato che Evidentemente questo senso critico, se così si può parlare, di mia figlia è stato chiaramente, cioè lei ha avvertito delle cose. Beh, ma non è che correva uno sguardo particolarmente acuto, l'ho intuito io ascoltando come si descriveva. Lei in realtà faceva il fighetto, sua figlia ha avuto il coraggio di dirglielo, sua moglie per compassione non glielo dice, ma è così, ma non c'è nulla di male, ognuno di noi fa il fighetto, anch'io ho dei pantaloni da fighetto di cui vado molto fieri, ma sì, ma realtà... quello che voglio dire, io a mio padre non mi sarebbe mai, cioè a 5 anni e mezzo non mi ha mai detto, ma questo è il vantaggio dell'umanità, che in realtà si evolve e si alleggerisce nei rapporti interpersonali. Oggi sappiamo che il rapporto di sangue non è più qualcosa che ci lega in maniera epica, indissolubile, ad esseri umani con i quali possiamo anche non aver nulla a che fare e non aver nessun legame di tipo affettivo. Agostino. Pronto? Eccomi. Buongiorno. Abbassi la radio però, Agostino. Sì, ho l'ho spenta. Ecco. Posso parlare? Certo, devi. Ah, certamente. Allora, guardi, io ho avvertito chi ha fatto da filtro la chiamata, che io ho figli ormai grandi, 40 anni, e sto crescendo una generazione che hanno 11 e 16 anni. Cioè, allora, per quanto riguarda quelli precedenti, io ho cercato sempre di avere un primo dialogo e cercare di reprimere o di proibire, ma nel momento in cui un diniego, mentre prima la mia generazione, i miei padri diceva ho detto le no e basta, io no, io gli dicevo la motivazione per cui preferivo che una cosa non la facesse. E devo dire, ho avuto un ottimo risultato. Adesso sto facendo la stessa cosa, cercando sempre di mantenermi, come dire, giovanile, non nel senso dell'aspetto. Ma lei si occupa di nipoti, il nipote è l'altro. Solo che se lei si ricorda quel bellissimo film I Mostri con Ugo Tognazzi, sì, degli anni 60, dove Ugo 60, quasi anni 70, dove Ugo Tognazzi fa la parte del padre moderno, no? Che con la macchina fa zighe zaghe, cioè sì, poi insegna al figlio, insegna al figlio a essere teppista, cioè, poi va al bar, si mangia 4 cornetti, invece ne paga uno, un cappuccino, e poi dopo cambia il quadro e si legge sul giornale prima pagina: figlio, uccido il padre per un padre. Sì, però lei è un altro esempio. Allora, se ho ben capito, è la possibilità che si ha oggi nell'elasticità e nella possibilità di riavventurarsi nuovamente in situazioni di coppia, ha figli di generazioni molto distanti, quindi ha allevato i figli quarantenni, oggi si applica su quelli meno che quindicenni e ci sta lavorando. Cosa mi è venuta la curiosità? Ma che ruolo ti piace? Centrocampo. A me mi piace libero. Libero è un bel ruolo. Anche libero, vabbè. Però facciamo l'anno prossimo. Tanto quest'anno il nuoto è già pagato. Ecco Giuseppe, siamo in conclusione. Anche libero va bene. Dovremmo essere alla lettura similare all'amore moccioso, al moccio amoroso, qualcosa del genere. In cosa ci stiamo muovendo? Perché la contemporaneità da cosa viene tracciata, visto che noi usiamo il cinema come grande indicatore dell'evoluzione della società? Fortunatamente non c'è traccia di moccismi. No, ce ne siamo ben guardati. Qui c'è uno però è coevo, diciamo. È coevo, c'è uno splendido Kim Rossi Stewart che ha imposto per tutto il film al figlio di fare il grande nuotatore, e alla fine gli concede di assecondare i suoi desideri, cioè di giocare a calcio. C'è una sorta di dialogo che si stempera e che arriva a una sua conclusione alla fine, cioè si crea una sintonia. È un padre reso meno autoritario dalla mancanza di soldi, quindi questo è molto della nostra quindi epoca. Il terreno di battaglia in cui si forgia il legame o il passaggio generazionale è il campo di calcio. Grazie Sansonna, grazie professor Rocchetti e professor Intonti, ci sentiamo domani.